Spotify. Corre l'anno 2030 e mi ritrovo che di anni quasi ne ho 60. Il mio pizzetto è grigio ed i capelli sono senza. E Ambra è il primo presidente donna. Il cielo quasi non si vede più. Si esce con la maschera antigas. Sull'autobus c'è la business class. E per entrare in chiesa ci vuole il pass. Ormai si parla solo tramite internet. E il Parlamento c'ha la sede ad Hammamet. Ci si spara nella metropolitana. Tra nord e sud c'è la dogana. Però tutti si veste Dolce & Gabbana. E la mia mente indietro vola. Veloce fila a prima del 2000. Tanti anni fa quando si era in tempo. Adesso no, e oltre ai conto ce l'hanno i pro. Perciò c'era chi stava insieme, c'era chi amava ancora nonostante il male. La musica, c'era la musica, ricordo, la musica, c'era la musica. Siamo nell'anno 2030, loro controllano televisione e radio. C'è un comitato di censura audio, valutano, decidono quello che sì, quello che no. Ci danno musica innocua dopo il collaudo. Sanremo lo presenta Mai Buongiorno insieme a Baudo. Con i fiori e la scenografia spettacolare. Quest'anno ha vinto Bossi, che è tornato a cantare. Corre l'anno 2030, l'Italia ha venduto il Colosseo alla Francia. Venezia affonda, 2030, e un giorno sì e uno si scoppia una bomba. 2030, e siamo senza aria, ma odio ce ne abbiamo in abbondanza. Prima divisero nord e sud, poi città città e pensa. Adesso ognuno è chiuso nella propria stanza. L'intolleranza danza, non c'è speranza. C'era chi stava insieme, c'era chi amava ancora nonostante il male. La musica, c'era la musica, ricordo, la musica, c'era la musica. Questo è l'anno 2030, qui chi pensa è minoranza, ma non ha importanza, non serve più. 2030, l'indifferenza è una virtù, i cybernazi fanno uno show in TV. I liberatori picchiano barboni in nome di Gesù. L'inno nazionale suona tipo marcia funebre. Il flesso virtuale è più salubre, in quanto che c'è un virus che si prende tramite il sudore. E in 90 ore si muore. L'HIV confronto